Eccoci con il cinema su Radio Onda Rossa, la trasmissione Visionari il giovedì dalle 14 alle 15, ma spesso e volentieri anche prima, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della Radio Onda Rossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale alla voce Trasmissioni Visionari, la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, mentre l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Cominciamo quest'oggi con un doppio collegamento telefonico, perché abbiamo con noi Barbara Rosanò e Valentina Pellegrino, registe del docufilm Uscirai Sano. Intanto benvenute a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, grazie. Federico, io non ti sento più. Pronto? Non ci senti? Pronto, ora pronto? Sì. Oh, sì, okay, ora sì. Ok, perfetto. Allora, visto che abbiamo due linee telefoniche distinte, cominciamo con Barbara. So che il progetto parte da te, ce lo racconti un po'? Sì, credo di aver. Perché la linea va e viene. Mi parli di come è nata l'idea, mi chiedevi? Sì. Allora, va bene, io sono originaria di Girifalco, sono nata e cresciuta lì e l'idea l'ho ereditata da mio padre, che a 20 anni mi ha regalato una telecamera e mi ha portato a fare delle riprese lì nell'ospedale. E mentre eravamo lì mi fa: prima o poi dobbiamo raccontare la storia di questa struttura del nostro paese. E mi sono resa conto che quindi c'era una storia da raccontare, però poi sono passati molti anni prima di raccontarla. Senti, allora... stavi continuando? Scusa Barbara. Sì, tornando da Roma 5 anni fa ero disoccupata e ho deciso di dar vita a questo progetto insieme ad alcuni amici del paese, alcuni compaesani e poi anche degli amici lì a Roma che avevano competenze tecniche e la mia stessa passione per il cinema e a cui avevo già raccontato queste idee e questo progetto. Okay. E così è nato Uscirai Sano. Ok. Allora Valentina, adesso ci racconti un po' intanto come avete strutturato il lavoro e poi che cosa racconta. Allora, abbiamo deciso di raccontare la storia appunto di questo ospedale psichiatrico utilizzando un linguaggio particolare che è quello della docufiction, quindi abbiamo intervallato delle parti strettamente documentaristiche intervistando gli addetti ai lavori e i pazienti con delle parti invece in cui ci sono delle ricostruzioni di fiction e quindi abbiamo avuto modo di raccontare, diciamo, tanti episodi che erano così tutti separati in un'unica storia appunto di fiction. Barbara, quali sono gli elementi qualificanti di questa struttura ospedaliera? Beh, sicuramente l'ergoterapia e l'open door che hanno contraddistinto l'ospedale psichiatrico sia dai primi anni proprio della sua nascita, già nell'Ottocento. L'ergoterapia intendiamo la terapia del lavoro, del recupero attraverso il lavoro, e diciamo che ha precorso i tempi di una legge Basaglia. E l'open door idem, nel senso fu una, diciamo, adottata prima in Inghilterra e subito dopo in Calabria da noi. E l'open door consisteva nel far uscire, interagire con la popolazione i pazienti ritenuti idonei. Quindi noi abbiamo raccontato una storia positiva, visto che dei manicomi comunque si parla sempre in senso negativo. Siamo partiti da qualcosa di che antropologicamente ha cambiato la popolazione per poi raccontare anche le virtù di questa struttura. Valentina, che impressioni hai ricavato da questa storia? Ma guarda, innanzitutto devo dire che è stato un grande scambio, insomma, perché il fatto di stare lì per 12 giorni consecutivi, abbiamo girato lì, siamo stati con i pazienti, ci ha dato sicuramente tantissimo. Tra l'altro alcuni di loro partecipano anche nella parte di fiction, quindi per loro è stata anche una novità ricevere appunto il mondo che di solito è esterno, che è entrato dentro all'ospedale, quindi è stato sicuramente molto interessante. E Barbara, ti chiedo quante persone sono passate per questa struttura, se avete dei numeri. Tantissime, cioè abbiamo toccato anni in cui c'erano 1400 persone all'interno dell'ospedale per una popolazione che totalmente ne è fatti 7000, quindi un bell'impatto sociale, diciamo. Sì, sì. E comunque ci tenevo a dire che noi abbiamo cercato di raccontare la storia, i diversi punti di vista, cioè questa storia viene raccontata dal punto di vista del paziente attuale, sì, dell'ex paziente, dei medici, dei cittadini del posto, cioè abbiamo cercato di dar voce a tutti quanti. Ok. Valentina, in chiusura ci racconti un po' il percorso di questo documentario, se avrà anche poi una sorta di distribuzione? Guarda, finora abbiamo partecipato al Festival Sguardi Altrove di Milano e poi verrà adesso proiettato sia a Girifalco il 14 di agosto, quindi proprio diciamo nel paese dove c'è l'ospedale, e a Catanzaro a settembre al cinema. Okay. E dopodiché ovviamente speriamo in una distribuzione, stiamo lavorando proprio per questo, in modo tale da farlo vedere al numero maggiore possibile di persone, ovviamente. Barbara, per chi volesse saperne di più, ci sono dei riferimenti web? Sì, la nostra pagina è il sito www.usciraisano.it, la pagina web dell'associazione culturale, che è la pagina Facebook, che è Kinema, e adesso inizieremo con le proiezioni pubbliche. Per chi ci vuole ospitare, siamo disponibili, ecco. Inizieremo ovviamente da Girifalco, la prima proiezione sarà all'interno dell'ospedale, dell'ex ospedale psichiatrico, saranno presenti anche i pazienti che hanno partecipato alle riprese. Benissimo, allora io vi ringrazio, un abbraccio e speriamo grazie di risentirci per l'uscita in sala. Grazie mille, ciao Federico. Ciao, ciao Federico. Ciao, ciao, ciao. Barbara Rosanò e Valentina Pellegrino, registe del docufilm Uscirai sano. Carlo Chatrian, direttore della 70ª edizione del Locarno Festival dal 2 al 12 agosto. Carlo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, considerato che si tratta di uno degli storici festival internazionali per i più giovani, diamo anche una nota storica rispetto alla nascita del festival. Sì, tanti anni fa, appunto, le edizioni sono 70, gli anni leggermente di più, perché come per Cannes, Locarno ha avuto due edizioni in cui ne si è svolto, quindi torniamo indietro al 46, l'epoca, l'anno proprio successivo alla Seconda Guerra Mondiale, e un gruppo di intellettuali, tra l'altro italiani, decide di organizzare un festival in Ticino. Una delle ragioni è mostrare dei film che si faceva fatica a vedere e a promuovere in Italia. Ecco, questa idea dello spazio di libertà, che è legata all'origine del festival di Locarno, è rimasta la costante in tutta la sua lunga storia. E per dare qualche esempio, la si ritrova negli anni 60, è qui che sono stati fatti vedere i primi film che venivano da oltre la cortina di ferro, quindi film dell'Ungheria in particolare, ma anche più avanti film russi. Ecco, uno di questi sarà proprio fatto vedere a Locarno, il primo film di Sokurov, che è stato mostrato nell'87, 10 anni dopo la sua realizzazione, e via via per arrivare ai film di Kiarostami, Panahin, quindi quelli iraniani, o anche le prime opere di Spike Lee, Jim Jarmusch, Kathryn Bigelow. Ecco, questa idea di lanciare delle voci nuove, delle giovani voci, è legata a Torre Locarno e sarà omaggiata questa linea anche proprio nella 70ª edizione, con una sezione che si chiamerà Locarno 70. Ecco, proprio a questo proposito, come si caratterizza l'identità di questa edizione, di questa 70ª edizione? Ma io ho cercato di combinare questa identità doppia in due parole, ovvero innovazione e tradizione, perché se guardo indietro la storia del festival e se cerco di essere fedele al suo spirito, non posso che invece rivolgermi verso il futuro, verso ciò che sta davanti a noi. In questo senso Locarno è da sempre, sono convinto che lo sarà anche quest'anno, un luogo di scoperta. E le scoperte a volte possono anche arrivare dal passato. Faccio un esempio in una direzione e in un'altra. Tra i 18 film che concorrono ce n'è uno che è stato realizzato nel 1990 da un regista famoso già all'epoca, che si chiamava Raul Ruiz, un regista cileno espatriato per via del regime di Pinochet. Nel 90 ritorna in Cile, gira un film Lo Monte, questo film poi chissà come viene perduto. Ecco, 27 anni dopo sto film vede la luce e sono molto felice di poterlo mostrare appunto per la prima volta a un pubblico nel 2017. Invece un caso di un film che parla, che è al presente, che è stato fatto al presente, è sicuramente il film con cui apriamo la Piazza Grande, il nuovo film di Noémie Lvovsky, una regista francese, registratrice anche in questo film, un film che ha una storia molto delicata, una madre e una figlia, una fiaba raccontata dalla figlia alla madre. Nel cast, oltre a Lvovsky, c'è anche un grandissimo attore che sarà Locarno, mi fa piacere perché è la prima volta che potremo accoglierlo, Matteo Malric. Carlo, per quanto riguarda i lavori, da più o meno quante sono le opere presentate e da quanti paesi? Allora, il programma di Locarno si divide abbastanza equamente tra film nuovi, inediti, sì, e invece film che danno omaggio alla storia del cinema. Se restiamo sui primi, le opere, considerando anche i cortometraggi, sono all'incirca 130-150. Come dicevo, la vocazione a scoprire nuovi registi è forte a Locarno, si esplicita in particolare in due sezioni, una che porta il nome Pardi di domani, perché il leopardo, pardo come viene chiamato qua in Ticino, è l'animale, il simbolo, il brand del festival, e è un concorso dedicato ai cortometraggi. E poi abbiamo una sezione che si chiama Cineasti del Presente, che è una sezione storica del festival, e questo è un concorso destinato a opere prime e seconde, quindi sarà modo veramente di perlustrare il cinema nuovo in tutte le sue declinazioni. Qualche segnalazione rispetto agli ospiti? Sì, Locarno è un festival di scoperta, un festival d'avanguardia, quindi un festival che cerca di presentare i nomi prima che diventino famosi, però è anche un grande festival popolare, lo ricordiamo soprattutto nella Piazza Grande, che è la piazza centrale del festival, che arriva a ospitare fino a 8.000 persone. Ecco, sulla Piazza Grande ci piace anche ricordare e omaggiare i grandi registi, attori, produttori. Tra le presenze confermate quest'anno abbiamo Vanessa Paradis, che viene con un film, una commedia surreale che si chiama Chien, cane, che penso farà ridere e discutere. Abbiamo Fanny Ardant, che arriva con un film che è si chiama Lola Pater, e che è un film in cui la vede impegnata in un ruolo un po' particolare, perché è il ruolo di un uomo che è diventato donna, quindi una sfida nuova per la grande musa del cinema della nuova francese, non solo. E poi il grande Adrien Brody, quindi il pianista di Polanski, la persona che ancora oggi ha vinto l'Oscar alla più giovane età, che viene a raccontarci la sua esperienza al cinema in una masterclass e che riceverà un meritato premio. E poi Todd Haynes, quindi il cinema indipendente americano, che ritorna a Locarno, lui era venuto col primo film diversi anni fa, ci presenta il suo nuovo lavoro che era Cannes, che si chiama Wonderstruck, che bellissima poesia, un grande regista, magari non so quanto noto al pubblico più popolare, però è davvero una persona molto influente, che si chiama Jean-Marie Straub, un signore di 84 anni che ha raccontato anche la letteratura italiana tra Vittorini e Pavese. Senti, rispetto alla cinematografia italiana, qualche punta interessante che vorresti sottolineare? Sì, l'Italia quest'anno è presente, innanzitutto in Piazza Grande e tra l'altro con una proiezione gratuita sulla Piazza Grande il 31, ovvero il lunedì, con il nuovo lavoro di Marco Tullio Giordana. Anche lui era venuto a Locarno col primo film, quindi c'è in qualche modo una sorta di richiamarsi alla storia del festival. Il film si chiama Due Soldati, è un'anticipazione, è un film che è stato commissionato dalla televisione, ma che appunto viene mostrato in anteprima su una grande sala, appunto sul schermo della Piazza Grande. E poi il nuovo lavoro di Francesca Comencini, sempre in Piazza Grande, con Lucia Mascino e Thomas Trabacchi, la domenica 6 agosto. In concorso un film di un regista che si era fatto notare per dei documentari legati anche alla musica, girati nella provincia bolognese. Questo è un film di finzione con Pippo Del Bono, soprattutto con un gruppo di giovani attori, si chiama Gli Asteroidi. E poi ci sarà modo anche appunto di scoprire delle voci nuove. Ci sono due opere prime in cineasti del presente, una di finzione, si chiama Easy, il film uscirà in sala a fine agosto, e un'altra invece un film che anche un po' rispecchia la volontà di Locarno di andare a cercare il cinema nei confini tra documentario e finzione, tra saggio e installazione. Il film si chiama Il Monte delle Formiche, il punto di partenza è un santuario vicino, anche questo proprio nell'Appennino bolognese, dove le formiche si ritrovano miracolosamente ogni anno, penso verso fine agosto. Benissimo. Carlo, in chiusura ci lasci i riferimenti web per la programmazione per saperne di più? Sì, il festival si chiama Locarno Festival, però il sito è legato appunto al suo brand, quindi dovete fare pardo.ch e troverete tutte le informazioni, gli orari di programmazione, gli ospiti che non sono riuscito a enumerare e le varie attività, soprattutto le tante attività di, noi le chiamiamo masterclass, di incontro, perché questo è un aspetto mi sembra molto importante, ovvero non solo mostrare dei film ma anche permettere alle persone di incontrare i loro ospiti. Chiudo magari con una nota che è extra cinematografica, perché a partire da quest'anno Locarno avrà anche due spazi dedicati all'after hour, cioè alla sera, con concerti ogni sera, DJ set, insomma, in modo per offrire un'esperienza totale. Benissimo, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie. Ciao, buona Carlo. Giornata a voi. Carlo Chatrian, direttore della 70ª edizione del Locarno Festival dal 2 al 12 agosto. Eccoci con Francesca Magnoni, regista del documentario New Farmers, un viaggio tra i nuovi agricoltori. Francesca, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno Federico, benvenuti a tutti. Tra l'altro questo documentario, anticipiamo subito, sarà in programmazione al Clorofilla Film Festival all'interno di Festambiente dal credo 4 al 15 agosto, se non sbaglio queste sono le date. In particolare sarà proprio la proiezione di New Farmers, sarà l'11 di agosto. Perfetto. Allora, per chi ci ascolta, di cosa si parla? Allora, si parla di un progetto che è stato realizzato nell'ambito di una produzione di un programma televisivo dedicato ai nuovi agricoltori e cofinanziato dalla Comunità Europea nell'ambito della PAC, la politica agricola comunitaria, quindi un progetto televisivo il cui, diciamo così, best of è stato trasformato anche in un documentario. Per questo appunto io insieme alla produzione lo abbiamo spedito anche, inviato, proposto anche al Clorofilla Film Festival, che appunto ce lo ha selezionato per questa importante proiezione che si terrà in Maremma, una proprio anche delle zone dove abbiamo girato, fatto alcune riprese di New Farmers. Come ti dicevo, nasce come programma televisivo in 10 puntate, dove tra l'estate scorsa e l'autunno scorso ho girato insieme al regista e al cameraman per fare per raccontare le storie di 10 nuovi agricoltori, cioè siamo un po' insomma domandati chi sono oggi gli agricoltori moderni, che cosa devono fronteggiare, quali sono le sfide dell'agricoltura di oggi, e quindi è stato un viaggio per me peraltro di conoscenza, perché io non sapevo molto, cioè sono giornalista ma non mi ero mai occupata di agricoltura, quindi è stata una vera sorpresa, devo dire molto appassionante, perché poi l'agricoltura in fondo fa parte della nostra vita quotidiana, se pensiamo che mangiamo 3 volte al giorno sì. Già insomma ne facciamo uso, quindi è bene esserne consapevolmente a conoscenza di cosa significa essere agricoltori, di quali sono oggi le sfide. Peraltro è stato molto bello, Federico, perché in alcune tappe di questo viaggio che ho fatto alcune zone d'Italia che ho visitato sono zone rurali semiabbandonate. Io poi vengo dalla mia città natale, Rimini, immaginati, una riminese che d'estate è una delle città più affollate d'Italia e si sposti invece in località rurali semiabbandonate, dove questi imprenditori agricoli coraggiosi vivono portando avanti imprese e quindi anche salvaguardando il territorio, è stato veramente interessante, insomma. Ecco Francesca, a questo proposito mi parlavi di 10 storie, e quali zone d'Italia avete attraversato? Allora, guarda, abbiamo dovuto fare una scelta, perché 10 le regioni d'Italia sono di più, quindi abbiamo dovuto fare una scelta. Questa scelta l'abbiamo effettuata cioè la società di videoproduzione l'ha effettuata insieme a Confagricoltura, l'associazione che raccoglie, insomma, una delle associazioni italiane che raccolgono alcuni imprenditori agricoli, e io insieme a loro abbiamo selezionato delle aziende che si trovassero in 10 regioni diverse per scegliere 10 temi diversi. Quindi, per esempio, in Toscana siamo andati in una zona dove coltivano la frutta biologica per la produzione di succhi di frutta biologici. Poi siamo andati in Calabria, dove abbiamo conosciuto un imprenditore che è innovativo, che per esempio produce bacche di goji, che al momento soprattutto vengono dalla Cina essiccate, invece lui le produce fresche, quindi con queste bacche fa di tutto, dagli spaghetti alle bacche di goji fino ai succhi di frutta, ai succhi di pomodoro con il goji. Quindi un innovatore che appunto ha introdotto un nuovo prodotto, insomma, in Calabria. Poi ci siamo spostati in Lombardia, dove fanno il latte di alta qualità, e poi in Emilia Romagna, appunto la regione di cui io sono originaria, dove fanno allevano razze IGP, quindi bovini IGP, tutelando alcune razze comunque in estinzione. E poi ci siamo spostati in Lazio, dove invece abbiamo scoperto un'azienda che fa agricoltura insieme a turismo, cioè insomma quello che è meglio conosciuto come agriturismo, attività agrituristica, però in modo consapevole, sostenibile, cioè cercando anche di far conoscere ai viaggiatori, ai turisti, cosa significa raccogliere l'uva, come si produce il vino, eccetera. E tra l'altro quest'anno ci sarà un New Farmers 2, la vendetta direi, nel senso che questo programma televisivo che va in onda su TV 2000 in autunno ha una seconda edizione, quindi sto andando adesso, insomma, in altrettante nuove regioni, 12 in particolare. Quindi per esempio per tutti gli appassionati, gli interessati della cosa, c'è una pagina Facebook che si chiama proprio New Farmers, un viaggio tra i nuovi agricoltori, dove tengo aggiornati i curiosi, il pubblico, delle nuove puntate. Quindi insomma, alla fine, tra l'edizione dell'anno scorso e quella di quest'anno, visitiamo 22 regioni, quindi in alcune torniamo, insomma. E quindi di tutto, cioè dal latte alla produzione del formaggio all'agroenergia, ovvero la produzione di energia pulita, sostenibile, grazie alla coltivazione, perché appunto uno dei temi anche della politica agricola comunitaria è l'attenzione all'ambiente con un'agricoltura sostenibile. Ci sono degli imprenditori che parte del loro terreno coltivato lo utilizzano per produrre energia pulita, insomma. Quindi i temi ci hanno fatto spaziare in tante regioni d'Italia per conoscere tutte queste realtà innovative. Francesca, quali sono gli elementi positivi e propositivi di questa nuova agricoltura e quali gli elementi di criticità? Ma allora, gli elementi di criticità sono, parto da quelli, insomma, essenzialmente legati al fatto che gli imprenditori agricoli hanno il loro dei problemi, insomma, grossi, che sono legati prima di tutto, per esempio, al clima. Oggi assistiamo a questi problemi legati ai cambiamenti climatici, per esempio uno su tutti in questo momento, la siccità. Sì. E quindi ovviamente la siccità mette in ginocchio gli imprenditori. Sono andata per esempio a fare alcune riprese adesso settimana scorsa nella piana di Castelluccio, famosissima per le lenticchie, peraltro anche martoriata dal terremoto. Ecco, adesso quest'anno che hanno potuto riprendere la produzione delle lenticchie, però la siccità non ha portato quella produzione elevata di anni passati, quindi questo è un problema molto molto grosso. E ovviamente alcuni imprenditori, e questo sono andata a vederlo, e quindi qui invece l'aspetto positivo, stanno portando avanti metodi di irrigazione molto attenti all'ambiente, quindi per esempio non la classica irrigazione a pioggia che si faceva fino a un po' di tempo fa, ma metodi di irrigazione innovativi, per esempio impianti a goccia che quindi vanno a misurare il quantitativo di acqua che si utilizza per irrigare, anche grazie a strumenti tecnologici, quindi al controllo con droni, con sistemi informatici che permettono di andare a verificare quando è il momento opportuno, per esempio, per andare a irrigare. Quindi di fronte ai problemi, comunque ho già visitato, insomma, conosciuti imprenditori agricoli che si danno da fare per utilizzare metodi di irrigazione, per esempio, appunto, innovativi. Un altro grosso problema è la burocrazia, perché anche per esempio per accedere ai finanziamenti europei che aiutano questi imprenditori a acquistare attrezzature innovative, macchinari sempre più tecnologici, e quindi per partecipare a questi bandi, per avere finanziamenti, poi però i tempi sono lunghi, insomma sappiamo cosa vuol dire in Italia la burocrazia, ecco, è un problema anche degli imprenditori agricoli. E quindi questi sono per esempio due problemi che ho incontrato. Poi naturalmente un altro grande è la concorrenza dei prezzi degli altri paesi, anche non europei, che fanno giungere in Italia produzioni non sempre di buona qualità, o dove il controllo non è come per esempio per noi Italia o per noi paesi europei, e quindi la concorrenza di prezzo quando si va a fare la spesa al supermercato. Infatti bisogna sempre stare attenti a guardare la provenienza del prodotto, perché magari siamo portati a acquistare una pesca che costa meno, ma da dove viene quella pesca? Come è stata coltivata, ci sono stati dati prodotti chimici per pesticidi, piuttosto che insomma prodotti chimici anche oggi sempre di più si cerca di evitare, quindi la concorrenza dei prezzi, per cui è molto importante per il cittadino, per il consumatore, per chi acquista i prodotti alimentari, di controllare sempre dove vengono, e quindi anche, ne parlo anche nel documentario, meglio spendere quell'euro in più ma comprare qualità, comprare sicurezza anche per la nostra salute, per cui quell'euro in più non è solo un euro che va a far guadagnare l'imprenditore, ma va a tutelare la nostra salute e, perché no, comunque a sostenere un'agricoltura di qualità, un'agricoltura che possiamo verificare, perché sempre di più le filiere sono corte. Infatti un'altra cosa che ho verificato durante questo viaggio interessante è che molto spesso gli imprenditori agricoli, per avere anche un controllo su tutta la filiera, producono e trasformano e vendono, quindi vendono direttamente i loro prodotti, sì. Quindi sempre di più l'imprenditore agricolo è un anche trasformatore e anche commerciante, quindi un vero e proprio imprenditore che controlla tutta la catena produttiva. Sì, sì, sì. Francesca, bene, i riferimenti ce li hai dati, se sarai al Clorofilla l'11 ci vedremo lì. Molto volentieri. E a questo punto, grazie. Ricordiamolo, New Farmers, un viaggio tra i nuovi agricoltori, e speriamo di risentirci presto per delle novità. Grazie, grazie mille, e chi vuole insomma saperne di più, ecco, può andare sulla pagina Facebook del programma. E grazie Federico per avermi invitato, e spero che ti piaccia il documentario. Un abbraccio e a presto. Grazie, grazie. Ciao. Mille. Francesca Magnoni, regista del documentario New Farmers, un viaggio tra i nuovi agricoltori. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta, e sull'home page, sulla colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari, trovate le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione, come anche sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, mentre l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo in collegamento con Anton dello Spazio Comune Cinema Aquila per parlare del percorso di assegnazione. Intanto ben ritrovato su queste frequenze. Ciao Federico, ciao a tutti i radioascoltatori, è un piacere. Allora, premetto che mi era arrivato il comunicato che avete emesso rispetto all'assegnazione del Cinema Aquila, e poi nello specifico magari ne parleremo con il Cineclub Il Chino, che è l'assegnatario appunto del cinema, però con voi volevo parlare di questo percorso che ha portato all'assegnazione dal momento della chiusura del cinema fino a questa paventata nuova apertura. Sì, noi abbiamo comunicato, siamo usciti pubblicamente per festeggiare la bella notizia, ovvero che è stata chiusa la gara di assegnazione per il Cinema Aquila e che ha vinto appunto l'Associazione Chino, che da anni si muove nell'ambito della distribuzione e dell'organizzazione di eventi per l'ambito cinematografico, e noi ne siamo molto lieti, perché è una realtà che conosce molto bene il territorio del Pigneto, hanno sede proprio al Pigneto, perché conosciamo gli animatori del Chino e sappiamo come lavorano sulla qualità, e perché hanno anche partecipato, hanno dato un grande aiuto a tutto il progetto di SCA, Spazio Comune Cinema Aquila. Quindi ci tenevamo a unirci anche noi nel comunicare questa notizia. Ovviamente la loro vittoria, diciamo, avrà ancora bisogno di un tot di tempo per essere ufficializzata e coperta in tutti gli ambiti, però insomma mi sembra già un buon primo punto. Per quanto invece riguarda il percorso che si è avuto fino ad oggi, è iniziato sostanzialmente a dicembre, sì. Pubblicamente è iniziato a dicembre del 2016, ovviamente è iniziato in realtà da lunghi mesi prima di preparazione, di creazione di questo progetto condiviso tra i cittadini, tra varie associazioni che si muovono nell'ambito culturale, di promozione culturale, e tra il comitato di quartiere attivo lì sul quartiere Pigneto e poi con il municipio Quinto, e senza aggiungere che comunque il percorso della cittadinanza per quanto riguarda i destini del Cinema Aquila in realtà ha un curriculum, ha una storia molto più antica, perché da sempre il cinema è diventato un punto focale della riqualificazione in senso culturale del quartiere Pigneto, sì. Quindi è stata sempre la cittadinanza a portare avanti questa istanza e ha fatto sì che un bene sottratto alla mafia venisse destinato non a una speculazione, a un utilizzo puramente commerciale, ma alla creazione di un luogo di incontro e di cultura, e quindi è nato poi il Cinema Aquila. Ha avuto, ad un po' più sommi capi, sì, sì, varie travessie fino alla chiusura avvenuta negli anni passati, e quindi rimaneva questo dato, nel senso che era terribile vedere queste luci spente ed era una perdita enorme per il Pigneto, che è un quadrante del Quinto Municipio molto particolare, molto interessante, e dove c'è molta consapevolezza sullo cittadino, ma che soffre anche di grandi criticità e di degrado. Quindi quel cinema era importante, e lì si è attivato il comitato di quartiere prima, si sono uniti vari cittadini e poco a poco si sono aggregate varie associazioni, operatori culturali, ma anche semplici interessati, partecipanti, che hanno costruito un tavolo di dialogo con il municipio e con la giunta precedente, in realtà con la giunta poi Marino, e questo percorso è continuato con la nuova giunta targata 5 Stelle, quindi anche con il municipio Quinto 5 Stelle, e ha portato dei frutti, perché a dicembre, come dicevo, nel 2016 si è attivato un'apertura del cinema con una programmazione costruita in maniera aperta, democratica e liberamente partecipata da chiunque aveva interesse e cura di venire a proporre presentazioni, proiezioni, incontri, dibattiti. Senti Anton, per quanto riguarda i prossimi passi e anche per avere informazioni ci lasci tutti i riferimenti rispetto allo spazio comune Cinema Aquila? Sì, assolutamente, si può trovare su Facebook la pagina dello spazio comune Cinema Aquila, acronimo SCA, e ugualmente c'è un blog che teniamo sempre aggiornato, che si può trovare facilmente sempre cercando SCA spazio comune Cinema Aquila, e da lì noi diamo ovviamente le informazioni, notizie, perché comunque il progetto di SCA è nato intorno appunto alla creazione di questo tavolo fatto appunto, come dicevo, tra cittadini e il municipio. È stato un tavolo che ha avuto anche momenti molto faticosi, perché non sempre è stata lineare la posizione del municipio e del comune, non sempre hanno aiutato a creare questo percorso, ma anzi spesso l'hanno anche osteggiato fino a momenti critici forti che sono avvenuti in mesi passati. Sicuramente ne avrete sentito parlare o letto, certo, perché ha avuto anche una rilevanza nazionale di atti di censura, di proprio forzatura nell'eliminare dei film che erano stati introdotti in programmazione, una programmazione poi condivisa, quindi niente di oscuro, di creato al di nascosto. E quindi, come dicevo, il comune e il municipio spesso hanno osteggiato questo percorso, hanno tenuto una posizione ambivalente, tesa tra il cercare di ottenere la massima visibilità di un progetto del genere e anche un po' condizionarlo. Gli ultimi mesi che noi abbiamo visto questo percorso a maggio di quest'anno sono stati forse poi più faticosi, perché in realtà per mantenere vivo il progetto abbiamo dovuto lottare fortemente con il municipio, che ha tentato molto di verticalizzare questo percorso e di condizionare molta programmazione. I frutti secondo me sono stati comunque positivi, perché il bando scritto e oggi concluso ha recepito molte delle istanze che abbiamo portato, ha recepito i caratteri generali dell'idea di un cinema, e secondo me con questo progetto di SCA è nato anche un test importante per la città di Roma, che oggi vive una situazione faticosa, ma non solo in senso culturale, proprio nel senso di partecipazione democratica dei cittadini alle scelte della città. E SCA ha rappresentato un'innovazione, perché ha potuto mostrare come è possibile, con tutte le dovute difficoltà, costruire un percorso tra cittadini, associazioni e istituzioni che permettesse la realizzazione di qualcosa che sembrava sulla carta irrealizzabile, cioè l'apertura gratuita e animata di un cinema con una programmazione stretta di tutte le sere. E ovviamente una programmazione che era frutto di una collaborazione, di scelte al quale ci hanno sostenuto associazioni, registi, non vado a citare nomi perché poi ne direi alcuni, altri no e fare torto a qualcuno, certo. Però c'è stata una partecipazione enorme, andando sul blog o sulla pagina Facebook potete vedere tutte le partecipazioni che ci sono state. Questa è stata una cosa importante, soprattutto secondo me è importante letta in un quadro generale di come si sta trasformando oggi la vita quotidiana a Roma, e quindi l'affermazione che si può creare un percorso partecipato tra cittadinanza e istituzioni. Bene Anton, allora ci si sente per le prossime tappe, un abbraccio. Davvero, grazie a tutti, ciao. E un saluto, davvero, grazie Federico. Ciao, ciao, a presto. Ciao. Lo spazio comune Cinema Aquila sul percorso di assegnazione. Vincenzo Notaro, regista del documentario Ci vuole un fiore, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Vincenzo. Beh, grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito, Federico. Allora, tra l'altro anticipo subito che sarà in programmazione all'interno del Clorofilla Film Festival in questo inizio di agosto. Vincenzo, per chi ci ascolta, di cosa parla questo documentario? Allora, il documentario parla del movimento della nascita degli orti urbani a Roma e del recupero delle terre pubbliche abbandonate da parte di giovani agricoltori romani. E diciamo è un viaggio attraverso questa rinascita, questo senso agricolo delle persone, questo spirito agricolo da parte dei cittadini, che è stato anche un modo per riqualificare delle aree degradate dei quartieri romani. Cioè, quindi questo è stato un modo per abbellire i posti dove i romani vivevano, che erano, cioè, posti abbandonati. Sì. E loro, attraverso l'orto, sono riusciti a creare degli spazi verdi, dove questo poi ha creato tutto un modo per condividere, avere di colore tra le persone che abitavano in quartiere, quindi anche un modo per socializzare. Ti sento un po' male adesso. No, dico, ecco. Tutta una storia di amicizie, di aggregazione, sì. di lotta per una questione comune, che è quella di vivere in un posto migliore, dove l'amministrazione non può arrivare a dire cittadino, facendo tutto. Senti, e poi c'è sì. Sì. Stavi continuando. No, c'è la storia di alcuni ragazzi, in particolar modo della cooperativa Coraggio, la cooperativa giovani agricoltori romani, che hanno recuperato uno spazio a Borghese San Carlo, dove adesso hanno creato una loro piccola azienda e stanno producendo i loro prodotti biologici. Di tutto un percorso, ecco, che riguarda anche, la ricerca del lavoro. Sì. Senti, Vincenzo, com'è nato il progetto documentario? Ma il progetto nasce da una mia curiosità, cioè, che era quella di appunto andare a vedere se a Roma esistevano degli orti urbani, perché quando ho iniziato stavo leggendo molte notizie, appunto. Che nelle altre capitali europee c'era questo tema della terra, no? Berlino aveva il posto urbano, Parigi. Però mi sono domandato, ma come avrà un posto urbano, avrà degli orti urbani? E ed è stata, una grande sorpresa, perché non è che ce n'è uno. Quando ho iniziato a fare il documentario io ce n'erano già 550 orti. Ho iniziato dal mio percorso, è iniziato dall'orto di Carbatella, che è proprio sotto la regione Lazio, parte della regione Lazio, e lì poi ho conosciuto diversi artisti che mi hanno portato poi a conoscere altri orti in altri quartieri di Roma, come quelle di Fontane, l'orto di Eutorto, che era un orto di integrati e lavoratori di Euteria, e quindi tutto un percorso che mi ha portato a conoscere più di 150 orti nella comune di Roma. Quindi l'idea è nata, la mia curiosità di andare a scoprire a Roma se c'erano orti, se questa moda, chiamiamola moda, però poi non è una moda, questo movimento era nato anche a Roma. Centro, adesso sono più di 150 e poi ho scoperto che già prima, negli anni 30, gli orti facevano gli orti. Gli orti di guerra, sì. Gli orti di guerra, esatto. Gli orti di guerra, ma anche gli orti dei lavoratori in Italia che venivano a Roma, gli emiranti, che appunto si bonificavano delle zone di quei terreni e lì facevano, si creavano il proprio orto, quindi mantenevano un po' della loro tradizione contadina anche in città. Quindi i primi fattorieri che venivano a lavorare a Roma negli anni 30 si creavano questi orti e dove ancora adesso ci sono, lungo l'Aniene, ci sono delle zone bonificate dove ci sono adesso i figli di questi ferrovieri nipoti che portano avanti ancora l'orto. Sì, quindi sì. Sono anche orti che vengono tramandati di là in studio. Senti, Vincenzo, mi dicevi di 150 orti urbani a Roma, più o meno quante sono le persone coinvolte? Dipende dal quartiere, ce ne sono 20, 15, 10, cioè che c'è veramente un gruppo nutrito. Poi alcuni orti vengono fatti vengono usati anche come a scopo didattico, dove le scuole vanno e fanno dei piccoli corsi per i piccoli artisti. Diciamo, ogni orto a Roma c'è uno spazio dedicato all'orto didattico e gli orti vengono assegnati in base, diciamo, al reddito delle famiglie, se sia in pensione o meno, quindi diciamo ci sono delle piccole come posso definirle delle classifiche dove, diciamo, lo stesso fa richiesta del, diciamo, una sorta di graduatoria, via. Esatto, sì, c'è una graduatoria dove il cittadino fa richiesta, cioè della notte, e il titolo di titoli giusti viene, diciamo, insegnato. A volte, diciamo, il tempo che uno ha, diciamo, per lavorare all'otto, per le nostre, di lavorarci, di cittadino, dopo magari se vuole continuare lo tiene, se non vuole tenere passa un altro tipo di richiesta, quindi c'è, diciamo, sono queste piccole regole interne. Sì. Vincenzo, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, allora la pagina Facebook ci vuole un cuore 2017, dove si possono trovare tutti gli appuntamenti e le varie selezioni che verranno fatte. La prossima, appunto, è il 9 agosto a Clorofilla Film Festival. Allora ci si vede lì. Va bene, sarà un piacere. Un abbraccio, Vincenzo, a presto. Grazie mille. Ciao. Buon pomeriggio, ciao. Vincenzo Notaro, regista del documentario Ci vuole un fiore. Ritroviamo Stefania Bianchi, direttrice della quindicesima edizione di Guerre e Pace Film Fest, l'arena stabilimento Proloco di Nettuno. Dal 24, quindi appena cominciata, fino al 30 luglio. Stefania, ben ritrovata a Visionari su Onda Rossa. Ciao a tutti. Ciao. Allora, per chi ci ascolta, Guerre e Pace, qual è la sua caratteristica? Allora, Guerre e Pace Film Fest è, diciamo, una rassegna, è unica nel suo genere, perché attraverso film, libri e documentari ogni anno facciamo un percorso. Quest'anno il tema sono storie di guerre e le racconteremo proprio attraverso i film, libri e documentari. Senti, le opere presenti quest'anno? Allora, abbiamo aperto con Torneranni Prati e sono stata felicissima perché è stata una bellissima serata di Ermanno Olmi. Poi coincidenza ha voluto che l'abbiamo presentato il 24 luglio, era proprio il compleanno di Ermanno Olmi, quindi doppia felicità, è stata una bellissima serata. E naturalmente altre opere che abbiamo presentato ieri sera, Deserce, un film bellissimo, e questa sera presentiamo Mine di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, che è un film bellissimo, un film tutto italiano, e insomma sono contenta di presentarlo al Guerre e Pace Film Fest. Tra l'altro gli abbiamo dedicato al festival la copertina della puntata di questa settimana con la foto del murales di Banksy. Sì, abbiamo voluto proprio scegliere, ci è piaciuta molto anche per il messaggio che gli abbiamo voluto dare, e la Gioconda, che è proprio il simbolo della cultura per eccellenza, con il bazooka. Banksy è un genio e naturalmente noi l'abbiamo interpretata che la cultura è l'unica arma proprio per distruggere e per combattere la guerra, quindi è anche un bellissimo messaggio. Stefania, gli ospiti previsti? Allora, questa sera presenteremo un documentario bellissimo, Bruno e Gina di Beppe Attene, e sarà presente il regista. E purtroppo Fabio Guaglione e Fabio Resinaro sono impegnati a girare la loro seconda opera, Ride o Ride, perché naturalmente ci regalano sempre dei titoli che hanno un doppio significato e quindi non possono essere presenti, però insomma vale la pena vedere il film perché è molto bello. Benissimo. Senti, ci lasci a questo punto anche tutti i riferimenti web per il programma? Sì, allora, tutto il programma è pubblicato su www.guerrepacefilmfest.it e naturalmente all'arena Proloco di Nettuno in via Gramsci 17, l'ingresso è gratuito, insomma è un bel posto, è una splendida location per trascorrere una serata, vedere dei bei film sotto le stelle, quindi io invito tutti in spiaggia e ringrazio Visionari perché ogni anno ci dedicate sempre un bellissimo servizio. Stefania, un abbraccio e a risentirci presto. Un abbraccio grande. Ciao, ciao, ciao. Stefania Bianchi, direttrice della 15ª edizione di Guerra e Pace Film Fest, l'arena stabilimento Prologo di Nettuno, fino al 30 di luglio. Eccoci con Maria Gabriella Macchiarulo, tra i curatori della mostra Primi Piani, le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni al Teatro dei Dioscuri al Quirinale, qui a Roma, dal 26 luglio fino al 24 settembre. Gabriella, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie dell'invito, ciao a tutti, ciao Federico e ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, Primi Piani, chiaramente si parla di cinema, non poteva non interessarci, allora parlaci un po' di questa mostra. Allora, questa mostra nasce dopo l'esperienza già fatta sempre al Teatro di Oscuri al Quirinale, che l'Istituto Luce ha in gestione da qualche tempo, che ha aperto con una mostra su Gillo Pontecorvo nell'autunno scorso. Poi c'è stato un periodo per il restyling, un minimo, dello spazio, e che poi è inaugurato sempre con una mostra di Pino Settanni dal titolo Viaggi nel quotidiano. Viaggi nel quotidiano era una mostra degli scatti che Pino ha fatto a seguito dell'esercito nei Balcani e poi in Afghanistan, e poi c'erano tante bellissime fotografie del sud che lui ha scattato dagli anni 60 agli anni 80. Dopodiché ci è venuto in mente, avendo noi acquisito il fondo di Pino Settanni dalla moglie, da Monique Settanni, perché purtroppo Pino non c'è più, e quindi intanto volevo ringraziare Monique Settanni per averci affidato gli scatti di Pino, ormai è diventato come un mio amico anche lui, perché ho sentito tanto parlare di lui da Monique. Pronto? Sì, eccomi, ecco, scusami scusami, non ti sentivo più. E in occasione degli 80 anni di Cinecittà, che da qualche mese è tornata in mano pubblica grazie all'Istituto Luce, quindi siamo tutti adesso una grande famiglia, abbiamo pensato che queste bellissime fotografie che Pino ha fatto nel corso degli anni 80-90 a dei protagonisti, a dei grandi protagonisti del cinema italiano, fosse l'occasione giusta per celebrare non solo gli 80 anni di Cinecittà, ma anche Pino, i suoi scatti e questi grandissimi protagonisti che sono registi, attori, attrici. Non li abbiamo potuti mettere tutti, ma speriamo di non aver scontentato nessuno. Ci tenevo comunque, Federico, a dire che condivido, diciamo, questa esperienza con altri colleghi, Emiliano Guidi, in particolar modo Paolo Angelucci, e poi anche un ringraziamento particolare a Marlo Pellegrini e Cristiano Migliorelli, loro sanno perché. E poi, se vuoi, ti racconto qualche aneddoto. No, intanto volevo sapere, allora, intanto hai detto il periodo è quello degli 80 e dei 90, se non sbaglio, se non ho capito sì, male. 80-90, diciamo, sono scatti fatti dalla fine degli anni 80, poi anni 90, perché tu ci sono Fellini, Sergio Leone e Mario Monicelli, sì. Che non ci sono più, che peraltro accolgono i visitatori all'ingresso. Con una piccola chicca, che sono le voci di Federico Fellini, di Mario Monicelli e di Sergio Leone, che parlano di Cinecittà e di come loro lavoravano a Cinecittà e perché sceglievano sempre Cinecittà. Sì. Quindi quando entri all'ingresso sentirai queste voci, non saprai da dove vengono, ma sono le loro voci originali. La foto di Fellini che vedrete all'ingresso è uno scatto dove io ho gli occhi chiusi e ci sono delle matite che volano per aria. Allora, quello scatto, ci tengo a raccontarlo perché Monique me l'ha raccontato, è uno scatto rubato a Fellini, perché lui non amava farsi dirigere, chiaramente in quel caso da Pino, che era il regista in quel caso della foto, quindi in uno scatto di rabbia, perché Pino gli continuava a chiedere, no, di mettersi in posa, lui butta queste matite per aria un po' stizzito, e quello scatto che vedete in mostra è frutto di questo scatto di Fellini un po' stizzito, con queste matite che volano per aria e lui con gli occhi chiusi. Senti, che trovo che... Sì, no, Gabriele, volevo capire anche quante sono le opere esposte in mostra. Le foto sono 50, okay, perché è uno spazio non molto grande, ma molto molto bello. Ci tenevamo che fossero delle foto grandi e belle, e quindi sono 50 scatti molto particolari, sono divisi in tre sezioni. Una è Sciarpe Rosse, si chiama Sciarpe Rosse come le chiamava anche Pino, che ha fotografato, è un po' un suo feticcio questa sciarpa rossa, ancora ce l'ha Monique questa sciarpa rossa, lui ha fotografato, c'è anche una foto di Pino con la sciarpa rossa, attori, attrici e registi. E quella con gli oggetti, lui fece una mostra che si chiamava Ritratto il nero con oggetti, vedete tanti oggetti, e per ogni oggetto lui chiese agli attori, ai registi di scrivere perché avevano scelto quell'oggetto. Adesso ti sto raccontando tante cose, scusami, ma sono molto emozionata perché ho sentito queste storie per mesi. E poi queste foto, come ha detto una collega, che lavora al Quirinale, che gli arabi non si fanno mai fotografare perché dicono che le fotografie rubano l'anima. E queste foto, conoscendo un po' chiaramente nell'immaginario attori, attrici, registi che sono lì, rappresentano, per chi li conosce, anche se solamente chiaramente sul grande schermo, è vero, ha avuto questa capacità. Gabriella, allora ci lasci tutti i riferimenti per allora, saperne di più? Sì, assolutamente. Allora, questa mostra l'hai già detto quasi tutto tu, è in via Piacenza, al teatro di Oscoli al Quirinale, via Piacenza 1, che è proprio alle spalle, qualche informazione in più, del Palazzo delle Esposizioni. Sì. L'ingresso è gratuito, la mostra è aperta dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19. Ingresso gratuito, se volete qualche informazione in più potete chiamare allo 06 86 98 1921. Aggiungo che sarà chiuso dal 12 al 18 agosto. Perfetto. Però invito tutti gli ascoltatori a vederla, anche perché ci sono anche due filmati, due video molto belli, una video installazione per la regia di Roland Sei col montaggio di Luca Onorati sugli 80 anni di Cinecittà, molto particolare, fatto con tutte immagini dell'archivio dell'Istituto Luce. E all'ultimo c'è una piccola picca, che è il backstage di Pino e Mario Monicelli, di Pino che fotografa Monicelli, ed è molto interessante e anche commovente. E ti aggiungo che Mario era un grande amico di Radio Onda Rossa, quindi non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Quindi ti invito anche te e tutta la redazione a vedere la mostra. Perfetto. Gabriella, un abbraccio, a presto. Grazie a te, ciao. Maria Gabriella Macchiarulo, tra i curatori della mostra Primi Piani, le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni al Teatro dei Dioscuri al Quirinale fino al 24 settembre. Rosalba Colla, direttrice della terza edizione di Animafix, Festival Internazionale del Film d'Animazione, a Villa Cattolica Bagheria a Palermo dal 27 al 30 di luglio, quindi oggi grande inizio. Ciao Rosalba, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, terza edizione, cos'è Animafix? Animafix è un festival di cinema d'animazione d'autore, ci tengo a specificarlo proprio perché prende le distanze dal commerciale, quindi da quella a cui in realtà in Italia siamo abituati, ovvero Disney, Pixar, manga, ma appunto abbiamo selezionato dei cortometraggi appunto internazionali provenienti per l'appunto da diverse parti del mondo. E cortometraggi quindi che avremo modo di vedere durante queste quattro serate dal 27 al 30 a Villa Cattolica, E quindi, come dicevo, prende le distanze dal commerciale per approcciarsi comunque ad una realtà appunto legata al settore dell'animazione, dove convive autorità e artigianalità, quindi tutto quello che riguarda, ecco, l'animazione a partire da pittura e quindi da gessetti, che può essere quindi pennelli, matite, ecco, tutto per diciamo plasmare poi la materia che sarà arte animata. Quindi ecco il motivo per cui gli ospiti d'onore quest'anno sono appunto, hanno un denominatore comune, che è proprio quello dell'artigianalità. Uno pittore, quindi parte dalla pittura, l'altro dall'incisione, quindi utilizzando ecco delle tecniche raffinatissime. Si tratta del regista svizzero George Fitzgebel, l'uno, e del regista polacco Piotr Dumała. Benissimo. Senti, Anima Fix, come è venuto fuori questo titolo? Beh, Anima Fix è venuto fuori perché in realtà nel cuore, no? del nome stesso c'è un PI, quindi scritto appunto PHI, che è l'effetto FI, quindi ovvero l'illusione di movimento, no? Che è denominato e definito così, quindi anima per indicare proprio l'animazione, sì, l'illusione di movimento, quindi è la X, insomma, abbiamo deciso di unirla per completare il nome, ecco, molto, molto schiettamente così. Senti, più o meno quanti sono i lavori presenti in questa edizione? Allora, i lavori sono tantissimi, ma sono divisi tra la Short Film Competition, quindi sono 20, ma poi ci sono circa 80 cortometraggi per le masterclass, per i focus. Per esempio c'è un focus, ecco, sulla Svizzera, per cui in compagnia di Matilda Tavelli, che è la direttrice artistica di Animatu, che è un festival internazionale d'animazione di Ginevra, vedremo per l'appunto dei migliori cortometraggi, ecco, d'animazione svizzeri. Ci sarà un focus sulla tematica queer, quindi per la sezione Queer Animation, in collaborazione con il Sicilia Queer Film Festival. Cortometraggi che appunto affrontano la tematica LGBT, e quindi insomma abbiamo abbracciato e sposato, ecco, la prospettiva di quest'altro festival siciliano, l'unico tra l'altro sul territorio siciliano ad affrontare la tematica dell'orientamento sessuale, delle differenze di identità. Poi ci sarà appunto una masterclass tenuta da uno dei più grandi storici e critici cinematografici mondiali, che è Gian Alberto Bendassi, e che si chiama History of Animation, che ripercorrerà insomma le pietre miliari del cinema d'animazione mondiale dal 1908 con Fantasmagorie, per esempio, fino al 1970, e dei workshop per adulti e per bambini, e uno in particolar modo è il workshop per la creazione dei video musicali condotto da Michele Bernardi, che è un autore anche spot, dei videoclip dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Le Luci della Centrale Elettrica e tantissimi altri gruppi, ecco, contemporanei. È un workshop per bambini, Cine Kids, ecco, diciamo che le attività sono un calendario piuttosto ricco per 4 giorni, però diciamo ben distribuito e dosato, ecco. Benissimo. Senti, a stabilire dal tuo accento, stiamo parlando di Sicilia, ma tu vieni da un'altra isola. No. Io sono siciliana. Sono siciliana, mi sono formata a Roma in realtà. Mi sembrava un accento sardo il tuo, pensa un po'. Davvero? Non sei il primo però a dirlo. Rosalba, allora ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, allora potete controllare, insomma, visionare la pagina Facebook di Anima Fix, ma in particolar modo il sito web appunto animafix.com, dove peraltro si trova il programma dettagliato dei By Day, quindi anche scaricabile. Benissimo, un abbraccio e risentirci presto. Grazie mille, buona giornata. Ciao. Rosalba Colla, direttrice della terza edizione di Anima Fix, Festival Internazionale del Film d'Animazione a Villa Cattolica Bagheria a Palermo, da oggi fino al 30 di luglio. Ed eccoci con Rachele Casato, pronto? Intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa, Rachele. Ciao, grazie Federico e buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito e dell'ospitalità. Con te per parlare del tuo documentario 1-3-2-4, allora parlacene un po', Rachele. Va bene, 1-3-2-4 è un documentario che parla del centro diurno per disabili situato a Schio, che è una piccola città in provincia di Vicenza. E questa cooperativa sociale che ospita appunto giornalmente questi disabili, che praticamente hanno però un'autonomia manuale e anche una certa autonomia manuale e anche personale, e perché questa è la caratteristica di questo centro diurno, è stato il recupero praticamente di un'antica lavorazione che sono i telai a mano. Quindi loro giornalmente lavorano su questi telai. Ti parlo un po' magari anche della genesi del documentario. Sì, ecco, come è venuta l'idea? Come mi è venuta l'idea? Allora, io li ho conosciuti molti, molti anni fa, cioè si può dire che siamo nel 2000, cioè secondo me nel 2004, anche prima, e li ho conosciuti perché loro appunto pubblicizzare i loro capi d'abbigliamento che facevano con questi telai a mano, hanno praticamente ogni anno facevano una sfilata di moda, e io un anno li ho aiutati a scegliere delle musiche per questa sfilata e sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo lavoro che conducevano e poi soprattutto anche dal luogo in cui avveniva il tutto, cioè perché questo centro di uno all'interno di una casa nel centro storico di questa cittadina. E negli anni mi è rimasta questa idea praticamente mi è cresciuta dentro, e poi va bene, c'è stato un percorso diverso di studi, di lavoro e quant'altro, cioè ritornato negli anni sempre lì che la rimuginavo, finché ho avuto un lasso di tempo di qualche mese, ho avuto anche delle disponibilità economiche per poterla produrre. La cosa interessante è che se io all'inizio ero, diciamo, mi era piaciuto un sacco il lavoro che conducevano, quando mi sono ritrovata lì, li ho conosciuti meglio, ho iniziato diciamo a lavorare con loro, la mia intuizione è stata quella di fare un documentario sulla percezione del tempo che sentivo all'interno del centro, cioè dal fuori al dentro ci sentivo proprio un cambio di percezione temporale e spaziale. La mia idea era quella, è stata, cioè, ed è insomma all'interno dell'opera, quella di restituire quella diversità, secondo me, temporale che si avverte quando magari si entra in contatto con loro, e la diversità temporale sentita, diciamo, da loro. Questo è stato praticamente la focalizzazione, mi sono focalizzata con il mio lavoro. Sì, sì. E, io, ecco, questo è praticamente il tema principale, poi potrei... a parte questa percezione, anche al di là di questa percezione temporale, volevo sapere da te quali sono le impressioni che hai ricavato da questa esperienza. Ma guarda, delle impressioni più da un punto di vista umano o strettamente anche produttivo cinematografico, perché magari posso, allora diciamo che da un punto di vista umano è stata una bellissima esperienza, perché comunque questo mi ha permesso di entrare in contatto con loro e di entrare diciamo in empatia, pur mantenendo un certo distacco, cioè la mia idea era quella comunque di rappresentare loro e di mantenere un certo distacco da ciò che stava avvenendo in scena. E, da un punto di vista produttivo, siccome è praticamente a zero budget questo lavoro, perché ho aspettato ad avere i soldi per l'attrezzatura e quindi è stata una cosa veramente cercata e voluta, è un progetto che ho seguito dall'inizio alla fine praticamente da sola. Sì. E questa è stata una grossa esperienza da un punto di vista professionale, molto forte. Cioè l'idea è quella che se tu hai un'intuizione, vuoi portarla fino in fondo, credi in una cosa, secondo me bisogna andarci dentro e portarsela a casa. Senti Rachele, un'altra curiosità è rispetto da quanto tempo va avanti questa l'esperienza di questo centro e quante persone più o meno ha coinvolto? Allora fa conto che i ragazzi sono una quindicina, mentre gli operatori sono cinque. Allora, questa, fammi un attimo pensare, questa esperienza va avanti da, penso ormai da una ventina d'anni, cioè mi sono accorto un po'. Però indicativamente una ventina d'anni, insomma. Sì, forse anche un po' meno, una quindicina comunque, una quindicina d'anni. Perché mi togli un po' preparato in questo, scusami. Senti, che percorso stavi continuando, scusami? No, assolutamente, dimmi pure. Voglio capire che percorso sta facendo il tuo documentario e se ci saranno anche possibilità di arrivo in sala. Allora, guarda, a me piacerebbe moltissimo, per ora l'ho inviato a diversi festival e purtroppo non è stato preso. Ha avuto comunque un riscontro di cioè una proiezione privata con i genitori e con altre persone che praticamente aderiscono al progetto e sono state molto soddisfatte, e in più anche privatamente l'ho fatto vedere ad alcuni insegnanti delle scuole che sono rimasti molto colpiti e mi hanno chiesto di farlo vedere ai ragazzi delle scuole superiori, e quindi questo secondo me è un ottimo inizio. Poi sto cercando anche una distribuzione, ovviamente, sperando che ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più. Allora, dal 1992 c'è scritto Solidale. Allora, i miei riferimenti internet, allora, attualmente per vedere un po' quello che faccio è il mio canale Vimeo, Rachele Casato. Poi un sito internet, ahimè, non c'è ancora, e neanche un trailer, che però verrà fatto al più presto. E per guardarlo posso lasciare la mia email, mi è concesso lasciarla, Rachele Casato @yahoo.it. se siete interessati iscrivetemi e io praticamente ve lo farò visionare molto. Benissimo. Volentieri. Allora, okay. Rachele, un abbraccio, un ringraziamento e a risentirci presto. Un abbraccio a voi, grazie infinite, grazie ciao. Rachele Casato, regista del documentario 1324. Fabia Bettini della Fondazione Cinema per Roma per parlare di Festa d'Estate all'Arena Forlanini qui a Roma, cominciata il 22 luglio, andrà avanti fino al 9 settembre per i fine settimana. Fabia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuta, grazie mille, sono molto contenta di essere con voi in diretta. Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' di questa iniziativa. Allora, sì, non è in realtà il primo anno che la Fondazione Cinema per Roma allestisse in realtà un'arena al Forlanini, che, devo dire la verità, è uno spazio bellissimo, quindi è un luogo quasi magico, perché sì, quando si entra all'interno del Forlanini veramente è un parco, è ovattato, sembra di stare fuori dal tempo, fuori da tutto. Quindi un posto, io invito gli spettatori non solo a venire a vedere i film, che c'è una programmazione molto interessante, ci sono registi e critici che presentano le diverse proiezioni, ma proprio a scoprire un luogo della città insolito e fuori dal tempo, inusuale, ecco, che molti romani sono certa non sì, conoscono, sì, hanno sì, avuto sì. ancora il piacere di vedere, diciamo, in una veste un po' diversa, che è proprio quella del Forlanini, del parco del Forlanini. Senti Fabia, com'è strutturata la festa? Quali sono le giornate e quali sono gli orari? Allora, le proiezioni, come avete detto, sono tutti quanti weekend. Abbiamo cominciato lo scorso weekend, il sabato, con Captain Fantastic, e proseguiamo adesso questa settimana, sabato e domenica. Domenica abbiamo Slam, introdotto da Molaioli, da Andrea Molaioli, il regista del film, e invece sabato abbiamo il film che è stato presentato a Venezia questi giorni, di Giuseppe Piccioni. E abbiamo, è un segnale che abbiamo voluto dare insieme alla Regione Lazio, che ha voluto l'arena, fortemente voluto l'arena, e ci ha coinvolto, un segnale, diciamo, per dare un po' di vita e cercare di pensare anche ai cittadini che rimangono a lavorare. Sono appunto i weekend, sono a Roma tutto il mese di agosto e andremo avanti fino al primo weekend di settembre, quindi tutti i weekend ci troverete lì al Fornalini, sabato e domenica, nessuno escluso. È una proiezione secca serale? Sì, è una proiezione alle 21, è una proiezione secca serale, quindi si arriva alle 21, c'è l'introduzione, c'è sempre un'introduzione, e poi c'è la proiezione del film a seguire. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Benissimo. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più rispetto alla programmazione? Certo, il sito della Festa del Cinema di Roma, che è romacinemafest.org, trovate lì tutte quante le indicazioni di festa d'estate. Vi aspettiamo, basta venire lì, ci troverete lì. Il sabato vi aspettiamo. Benissimo. Fabia, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi. Ciao. Fabia Bettini per quanto riguarda Festa d'Estate all'Arena Forlanini qui a Roma fino al 3 settembre. E con lei chiudiamo questo appuntamento settimanale con Visionare, il cinema su Radio Onda Rossa. Ci sarà ancora giovedì prossimo, prima della pausa estiva, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e la trasmissione le trovate sempre sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari, e poi c'è la pagina Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, ma spesso e volentieri anche un po' prima. È tutto, buon proseguimento, alla settimana prossima.